America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da New York, Mario Platero. Il nostro inno nazionale ieri è stato cantato in onore del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano a New York in visita negli Stati Uniti per il 150° anniversario della nostra unità. E vi avevo detto fin dall'inizio del 2011 che avrei dedicato alcune puntate all'Unità d'Italia. Questa è una di quelle puntate proprio per questa visita molto speciale del presidente Napolitano. Prima di parlare più a fondo di questo, però, vorrei fare una piccola parentesi sulla Libia. The situation in Libya, which engendered so much concern from around the international community. Hillary Clinton, fronte unito con Bob Gates, segretario al Pentagono, per quel che sta capitando in Libia. Le cose procedono, stanno andando bene. Questa sera avremo un discorso del presidente Barack Obama, sarà un discorso onnicomprensivo su quel che è successo a Tripoli, per spiegare come si sia potuto salvare, nella stima di Bob Gates, forse decine di migliaia di persone dal rischio di un massacro. It is particularly touching for me as President of the Italian Republic to share with you such a historical moment. President Obama, in his impressive proclamation on the occasion of the anniversary, celebrated the courage, sacrifice and vision of the patriots who gave birth to the Italian state. Il presidente Napolitano, lo avete sentito, ha fatto un discorso in inglese. Eravamo al 20° piano del St. Regis, grande albergo newyorkese, una comunità di circa 150 persone fra italiani, americani, italoamericani, e devo dire di grande livello. Poi il presidente più tardi nel pomeriggio ha fatto un'apparizione, una lunga apparizione devo dire, a Superstudio Industria di Fabrizio Ferri, grande fotografo italiano qui in America. C'era Isabella Rossellini, è uno spazio in cui sono stati esposti degli artisti italiani che hanno lavorato a New York. Il presidente di fatto ha inaugurato questo spazio. Ecco, proprio lì ho potuto intervistare il presidente su questo 150° anniversario e sul rapporto con gli Stati Uniti, un tema che, come vi ho detto, mi è molto caro e di cui mi riservo di parlare. Presidente, gli Stati Uniti apprezzano in qualche modo il nostro risorgimento, ma sanno anche che al di là degli aspetti teorici sono stati italiani che durante la guerra di secessione hanno combattuto qui, lo stesso Garibaldi, lei lo ha detto, doveva darsi. Cosa ci dice di questo rapporto? Garibaldi ebbe questa famosa proposta da Lincoln di venire a comandare una unità nella guerra di secessione, e vedo che la traccia rimane molto profonda. A parte la proclamazione del presidente Obama, ho visto che in parecchi stati ci sono state delle proclamazioni o ci sono state comunque delle risoluzioni che ricordano questo rapporto, quindi vuol dire che l'impronta è rimasta molto profonda. Ecco, e il suo rapporto con l'America, presidente, perché è un rapporto di lunga data, che riflessioni ha in questo momento? È un rapporto che non risale a 150 anni fa, non esageriamo. Comunque risale esattamente, vi faccio fare un momento il conto, 22, sono arrivato qui la prima volta nel 78, quindi 33 anni fa. Quindi insomma, e poi è stato dopo di allora un rapporto abbastanza intenso. Ecco, ma sul piano emotivo, in questo momento in cui noi abbiamo un anniversario, loro anche sono vicini all'anniversario della guerra di secessione, ecco, qual è la sua reazione oggi di riflessione dopo 30 anni di rapporti? La riflessione è fondamentalmente affidata ad una affinità che si conferma, che è un'affinità di grandi ideali, perché in fin dei conti l'unità d'Italia e l'unificazione con la nascita degli Stati Uniti dell'America del Nord fino ai confini che allora furono segnati hanno rappresentato due imprese molto simili tra loro nell'ispirazione e nella motivazione ideale, e anche le basi diciamo su cui poi sono state fondate prima gli Stati Uniti d'America e poi la Repubblica Italiana. Già diciamo nel 1861 l'Italia nacque come Stato unitario liberale, di impronta liberale, grazie soprattutto alla guida di Cavour. Poi c'è stato un periodo molto buio, c'è stato il periodo del fascismo. Quando l'Italia è risorta diventando Repubblica, ha nella sua Costituzione sancito solennemente principi e valori che sono gli stessi che reggono la Costituzione degli Stati Uniti, nell'essenziale. Ecco, infine gli italoamericani. Gli italoamericani sono cambiati rispetto a 20-30 anni fa, lei oggi ne ha visti alcuni. Qual è il suo messaggio agli italoamericani? Dovremmo avere rapporti forse più profondi di quelli che abbiamo con loro? Io credo di sì, è molto importante intanto che si coltivi, e a questo hanno risposto iniziative importanti, la diffusione della lingua, anche chi l'ha ricevuta in eredità dai propri genitori, se è anche soltanto un americano di prima o di seconda generazione. Questa però è una eredità da coltivare, perché l'italiano si può perdere, soprattutto se ci si identifica poi col paese in cui oramai si vive. E credo che dovremmo dare più spazio alla lingua italiana, alla cultura italiana, e anche cogliere l'occasione del 150enario per una grossa rivisitazione della nostra storia nazionale. Presidente, lei ha detto che l'America ha accolto milioni di immigrati italiani. Ebbene, come dovremmo porci nel momento in cui c'è un rischio di immigrazione dal Nord Africa nel nostro paese? Non dovremmo forse avere la stessa apertura? Ci sono ogni tanto delle posizioni, delle reazioni un po' sbrigative a livello di opinione pubblica, perché insomma non bisogna nemmeno ritenere che sia semplice, proprio perché c'è stata questa accelerazione. Nel giro di 20 anni noi siamo passati da una quota minima al 7% della popolazione che è fatto di immigrati, e quindi diciamo delle scosse dal punto di vista sociale e psicologico ci sono state, bisogna governarle. E naturalmente è cambiato il contesto mondiale e soprattutto c'è un incrocio tra continenti come l'Italia e l'Africa, che nel passato non avevano avuto questo tipo di rapporto. Comunque noi siamo, per così dire, tra i paesi europei gli ultimi arrivati come paese di immigrazione, essendo stati nel passato il numero uno come paese di emigrazione. E l'importante è che una volta diventati paese di immigrazione non si dimentichi di essere stato paese di emigrazione. Cioè, il modo soprattutto di considerare chi arriva non può prescindere da un'esperienza dolorosa che abbiamo fatto, e anche diciamo gratificante per il modo in cui poi, specialmente in un paese come gli Stati Uniti d'America, gli italiani sono riusciti a farsi strada. C'è stata anche una sorpresa per Napolitano, una sorpresa con un bicchiere di vino molto speciale. Ne parliamo con Ettore Riello, presidente della Fiera di Verona, ai microfoni di America 24 qui in studio con noi. Ci racconti la storia, com'è nata questa idea della bottiglia? È nata su una proposta così che gli ho fatto, credendo e capendo che era molto sensibile all'Unità d'Italia, e su questo è nato un progetto, se vuole, comune, su cui abbiamo voluto poi, lavorandoci parecchio da Verona Fiere, costruire un qualche cosa di particolare. L'idea era quella di farci, così ovviamente attraverso gli assessorati di tutte le regioni, indicare le bacche di riferimento, dove poi l'Assenology ha fatto una miscela e ha creato un vino che non è un marchio, non è nessun marchio, non si riferisce a nessuna tipologia di vino, ma è una miscela che è la miscela del vino Italia. Quanto ci avete messo per sviluppare questa miscela? È stato un tempo lungo, però forse giusto, ci abbiamo messo 6 mesi dall'inizio del progetto fino alla realizzazione del primo prototipo. Ecco, e il Presidente l'ha assaggiato? Il Presidente l'ha assaggiato, l'ha apprezzato. E soprattutto abbiamo risposto al dubbio che aveva, che non voleva avere il diritto della prima bevuta, e invece per fortuna abbiamo confutato questa sua posizione e abbiamo invece fatto sì che lui potesse avere proprio questo diritto di prima bevuta. E credo che sia stata la conclusione più bella e importante per questo progetto, ma soprattutto dico per i nostri grandi produttori, che sempre di più si stanno avventurando con successo non solo in Italia ma anche nel mondo.